5F. Ascolta e rispondi. Quanto tempo ti ci vorrebbe per fare questo viaggio in auto? Mi ci vorrebbe un mese. Quanto denaro ti ci vorrebbe per comprare quella villa? Mi ci vorrebbe 1 milione di euro. Quanti giorni ti ci vorrebbero per finire la tesi? Mi ci vorrebbero almeno 20 giorni. Quante ore ti ci vorrebbero per tradurre questo articolo? Mi ci vorrebbero 3 ore. Quanto tempo gli ci sarebbe voluto per il corso di specializzazione? Gli ci sarebbe voluto 1 anno. Quanto denaro gli ci sarebbe voluto per fare il giro del mondo? Gli ci sarebbe voluto lo stipendio di 1 anno.